se ne sta. Pifferi cembali timpani, svegliatemi, ninetta, svegliatemi, ninetta, accio non dorma più, accio non dorma più. Svegliatemi, ninetta, svegliatemi, ninetta, accio non dorma più. Svegliatemi, you.